avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Ve l'avevo detto che sarebbe arrivata questa fatale mattina in cui avrei parlato del senso profondo riposto nella sigla di Melog di quest'anno. Beh, diciamo che mi sono allenato per tutta la giornata di ieri cercando di coinvolgere gli ascoltatori che mi seguono dalla rete attraverso i vari profili Facebook sulla volontà di estirpare a loro qualche commento, qualche riflessione, qualche esperienza sul tourbillon de la vie. Cos'è il tourbillon de la vie? È quel vortice che ci prende, che ci rapisce e che ci rimette di fronte a delle situazioni che pensavamo di aver cancellato e che ci ripropone continuamente cose che noi avremmo seppellito nella nostra memoria stratificata che sovrascriviamo ogni giorno. Molto più semplicemente il tourbillon è il vortice che molte volte noi non comandiamo, non abbiamo modo di dirigere, non controlliamo. Ma c'è una grande resistenza oggi a lasciarsi andare alla piacevole osservazione della parte incontrollata della nostra esistenza. Ci vuole un grande gesto di leggerezza, un grande gesto di autonomia, una poesia del fato per riuscire ad ammettere che noi siamo preda di tourbillon. Il tourbillon del vortice che prende, nella fattispecie della sigla, Jeanne Moreau che canta questa canzone di fronte a due uomini che lei ha completamente annichilito, entrambi innamorati di lei. Il film da cui è tratta appunto la sigla è Julie Jim, che è un film noto di Truffaut degli anni 60, a sua volta è tratto da un romanzo di uno scrittore francese, Henri-Pierre Rocher, e parla di una storia autobiografica in cui lo stesso Rocher aveva un grosso amico che era appunto un altro scrittore tedesco. Entrambi nel romanzo vanno a fare un viaggio in Sicilia come facevano nei tempi passati gli scrittori romantici e vedono una statua greca fantastica in cui un giovane solleva una donna. Guardate quanto c'è di autobiografico in questo tratto. È una casualità che ho colto soltanto questa mattina. Nello sguardo estasiato, la donna sollevata, loro vedono qualcosa che segnerà la loro vita. Infatti, tornati a Montparnasse, incontrano questa fantastica pittrice, traduttrice berlinese, Helen Grand, che li strega entrambi, lì nasce una storia d'amore. Nel film di Truffaut sono anche lì due amici che vivono a Montparnasse nel periodo precedente alla Seconda Guerra Mondiale, incontrano Jeanne Moreau, donna fantastica, leggera, molto stronza naturalmente, che gioca loro con loro due facendone degli uomini oggetto. Uno dei due si innamora al punto tale che la sposerà, l'altro, il tedesco, si ritira in silenzio, scoppia la guerra, si trovano separati su fronti opposti, finisce la guerra, si rincontrano casualmente, Jules ha sposato Catherine, ha sposato appunto la Jeanne Moreau, vivono però come separati in casa, lei gli mette il muso, come naturalmente fanno le donne quando si annoiano, quando hanno messo il topolino nella gabbia e non sanno più che farsene. Il ritorno del vecchio amico riunisce il triangolo amoroso, lei appunto decide che a un certo punto se li terrà entrambi e loro di buon grado entrambi si dividono questa donna. Fino all'ultimo, quando lei trascinerà uno dei due in un incidente mortale, si sfracelleranno in macchina e il rimanente, il povero marito che si è diviso la moglie con l'amico in nome dell'amicizia, in nome della vigliaccheria di non saper prendere una posizione, non saper rinunciare appunto a lasciarsi prendere dal tourbillon amoroso, accompagnato le urne cinerarie di entrambi, le metterà nell'oculo e si allontanerà su questa sigla. Volevo parlare delle Tourbillon de la vie, che è una sigla perfetta secondo me, struggente e incantata. Perimetrerà bene lo spazio di Melog. Bella, è una bella cantilena. Bella Nicoletti, ottima scelta, si passa dal tango al girotondo, del resto siamo fatti così. La nuova sigla di Melog, le Tourbillon de la vie, mi è già entrata in testa e la sto fischiettando. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinait, qui me fascinait. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme. Considerate che quando il film di Truffaut venne in Italia ci furono difficoltà a distribuirlo, ci si mise di mezzo Rossellini e De Laurentiis, perché parlava di un triangolo amoroso, in fondo era un rapporto a tre e l'aspetto morboso era quello che più preoccupava i censori del tempo, quando in realtà è un film privo di morbosità. C'è una certa poesia, anche se è abbastanza radicalizzato il fatto che i due sono uomini totalmente senza palle, totalmente succubi di questa fantastica donna. Le donne più sono sfuggenti, più sono enigmatiche, più fanno soffrire, più naturalmente creano attrazione, attenzione, che rappresenta per loro un vortice inarrestabile. Cosa dice la canzone? La canzone la canta a un certo punto Jean Moreau con un suo amico compositore con cui lei sta facendo appunto questa canzone, con i due uomini trastullo che la guardano estasiati, e lei canta questa canzone. Aïe, aïe, aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale. Naturalmente parla di se stessa, parla di questa donna fatale, bellissima, come si vede lei, dal volto pallido, dagli occhi d'opale, che strega un uomo, questo uomo piena di braccialetti, di anelli, quindi rappresentava anche un'iconografia che forse non le apparteneva, in cui ci sono degli elementi accessori che tendono a dare sempre più un'immagine di seduttrice, di ammaliatrice, di personaggio misterioso, con venature quasi orientaleggianti, con questi occhi d'opale affascinanti, con questo ovale pallido di viso, come tutte le femme fatale, che fu fatale all'uomo che infatti ne seguì il fascino, divoratrice di uomini ma allo stesso tempo dispensatrice di meravigliosi paradisiaci tourbillon nei quali un uomo si perde molto volentieri. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner. Fino a che, dopo uno dei tanti lasciti, dopo un periodo di separazione, l'uomo in una sera di ebbrezza, pieno d'alcol, la rivede cantare. La vede cantare e l'alcol improvvisamente accentua questa visione e si rimettono insieme. Si rimettono insieme poi per lasciarsi prendere nuovamente al tourbillon della vita, e si domanda, dice, ma come mai ci lasciamo prendere a questo vortice, stiamo bene assieme, perché ci lasciamo e ci riprendiamo? Perché questo è il vortice della vita. 800240024, non soltanto legato a vicende di tipo amoroso, sarebbe troppo facile legare il tourbillon de la vie semplicemente, non so, a questi amori che vanno, vengono, ritornano, gli amori che sembrano morti, seppelliti, cementificati dall'oblio, molte volte si ripresentano come zombie che riescono dal sepolcro. Allora cosa accade? Accade che il tourbillon de la vie ci rimette di fronte a situazioni passate, ma riappaiono anche grandi nemici, riappaiono anche persone odiate, riappaiono anche le possibilità di sanare situazioni che ci hanno lasciato nello sconforto. Il tempo rende giustizia molte volte. Ci troviamo in mano il destino e la sorte della persona che tanto ci ha fatto soffrire, che ci ha rovinato, che ci ha distrutto la vita. Questo è il tourbillon della vita. 800240024. Ciao, io sono Giovanna, sono di Napoli e ho 33 anni, sono un'insegnante e quest'estate mi è capitata una cosa particolare perché, niente, facendo molto caldo ero spesso affacciata alla finestra. Io abito in un palazzo di 3 piani e di fronte al mio palazzo c'è un commissariato di polizia e quest'estate quindi stavamo spesso io e le mie compagne affacciate alla finestra e molto spesso mi ritrovavo anche da sola, magari a fumare una sigaretta, a chiacchierare al telefono con le amiche. So che esiste una grande reticenza a parlare dei tourbillon, dei vortici in cui ci siamo incappati nella nostra vita, perché è la cosa più difficile da ammettere di essersi lasciati prendere dagli eventi, o perlomeno che qualcosa chiamiamo destino, fatalità, caso, beffarda ironia del nostro quotidiano ci abbia preso, ci abbia fatto fare cose che non avremmo mai voluto fare o ci abbia rimesso di fronte a situazioni che avremmo evitato molto volentieri. Ma questa mattina, proprio per darvi possibilità di riflettere, di pensare, di chiamare e dire semplicemente, non è un discorso astruso, cosa è stato per voi il vortice che vi ha preso, che vi ha rimesso di fronte a situazioni, che ha fatto ritrovare situazioni, che ha scomposto la qualità del tempo. Guardate che non a caso le tourbillon anche è un meccanismo inventato in Svizzera, mi pare, che si mette negli orologi, una sorta di giroscopio che permette agli ingranaggi di girare girare più facilmente, adesso lo dico in maniera molto rozza, vincendo quella che è la forza di gravità. Quindi il tourbillon è qualcosa che annulla la pesantezza e vince quella che è la tirannia del tempo. Quindi siate leggeri e confessate il vostro tourbillon. Ho incominciato a notare che di fronte alla mia finestra c'era una finestra che dava in un ufficio in cui c'era un poliziotto che stava spesso lì e anche lui spesso incominciava ad affacciarsi alla finestra. E a un certo punto abbiamo incominciato a guardarci. I primi tempi è stato soltanto un gioco di sguardi. All'inizio io ero abbastanza imbarazzata dallo sguardo di questa persona e quindi spesso distoglievo io lo sguardo per prima. Giovanna è stata l'ascoltatrice che ieri ci ha cercato sapendo qual era l'argomento che volevamo proporre per oggi, perché abbiamo dei canali di comunicazione paralleli che non sempre sono visibili a tutti quelli che ci ascoltano, e raccontarci quello che è stato il suo tourbillon. Il suo tourbillon l'ha presa e l'ha rapita in un momento banalissimo della sua giornata, del suo quotidiano. Non è detto che noi siamo costretti ad andare in cima a vette vertiginose per sentire il morso del tourbillon che ci rapisce. Lei è stata rapita dal tourbillon nel momento più banale del suo quotidiano, quando sta davanti a una finestra e vede nella finestra del palazzo di fronte un poliziotto. Quanto di meno possa esserci di immaginario romantico, di figura ammantata di mistero, di eroe che sembra uscito da un romanzo. Normale, burocrate, poliziotto che stava lì, probabilmente me lo immagino, con la sua macchina da scrivere, scriveva i verbali degli interrogatori. Per lei quello è stato il primo soffio di vento che l'ha portata a desiderare di mollare gli ormeggi. Poi anche un po' divertita, perché naturalmente io provengo da un ambiente sociale totalmente diverso, perché sono frequentatrice di centri sociali, quindi ho cominciato a sorridere, a reggere lo sguardo di questo uomo. Mi ha colpito un po' tutta la vicenda, cioè il fatto che appunto fosse un poliziotto mi incuriosiva, mi divertiva anche che una persona comunque nella sua, diciamo, nel suo ambiente lavorativo poi usasse comunque flirtare con una vicina di palazzo, ecco. È interessante la testimonianza di Giovanna, perché ci permette di cominciare a stabilire alcuni punti fermi, alcuni segnali indicatori del tourbillon che sta arrivando. Lei è una giovane dei centri sociali, quindi immaginate quanto possa considerare persona affine alle proprie pulsioni interiori un poliziotto. Il poliziotto è il nemico per eccellenza, il poliziotto è la persona ricoperta dei peggiori pregiudizi nella mente di questa ragazza dei centri sociali. Eppure il segno indelebile e indecifrabile del tourbillon è proprio che questo poliziotto, il nemico per assoluto, che potrebbe essere nella vostra storia individuale la persona che più disprezzate, la persona meno affascinante, la persona più brutta, più repellente, più schifosa, più lontana dai vostri ideali, però scatta qualcosa e quindi quello è il segno che sta per scoppiare il tourbillon. Paolo, buongiorno. Buongiorno Gianluca, grazie per avermi chiamato. Ci aiuti anche lei a individuare i sintomi del tourbillon, non perché vogliamo fuggirne, ma perché perlomeno sappiamo a cosa andiamo incontro. Beh, diciamo, da una testimonianza diretta uno può, come dire, evincere questi simboli, che poi io in seguito ho ritrovato in un altro film interessante di Truffaut, che era la Fin du Conte. Comunque, io mi sono trovato, quando avevo 32-33 anni, una ventina d'anni fa circa, mentre ero sposato, avevo dei progetti, avevo tutta una serie di cose più o meno programmate, ho caricato un autostoppista, 21 anni, occhi azzurri, bionda, infermiera in rianimazione. Lei abitualmente caricava autostoppista oppure è stato un caso fortuito? Un caso fortuito, assolutamente. Quindi un sintomo sarebbe che noi, che improvvisamente nella nostra vita accade qualcosa, facciamo qualcosa che normalmente non facciamo. Esatto. Come per Giovanna guardare un poliziotto e guardarlo con interesse, non con la voglia di tirargli un zampietrino in testa. Esatto, ma diciamo anche la casualità di incontrare una persona che forse non avrei mai avuto l'opportunità di incontrare nella vita, l'ho incontrata in un'occasione così assolutamente casuale, non programmata. Quindi l'infermiera ha iniziato l'operazione di rianimazione e lì lei si è trovato nel vortice. No, io direi che l'infermiera aveva un rapporto, forse un segno particolare, vorrei dire, anche se non so se può aiutare questo a capire, un rapporto profondo e particolare con la morte. Avrebbe potuto lavorare in odontoiatria, invece lavorava in rianimazione, cioè tutti i giorni vedeva dei moribondi, e lei viveva con una profonda angoscia questo rapporto, ma non poteva farne a meno. Ecco, questa ragazza mi ha trascinato in un vortice che è stato poi, che ha portato alla mia separazione. Beh, aveva una vocazione psicopompa, cioè di accompagnamento all'aldilà gentile dei moribondi, quindi lei probabilmente era in un periodo in cui sentiva una fase particolarmente down, non so, immagino. Io? Perché... No? Ma che? No, era una felice. Fase in cui stavo facendo tutta una serie di cose perché le avevo progettate, senza chiedermi se ci credevo veramente. Questa persona mi ha portato a una dimensione spirituale prima di tutto, prima che altre cose, sessuale o cosa, ma molto chiaro. Prima in una dimensione spirituale diversa, una dimensione anche di revisione di una serie di schemi che mi ero fatto, e mi ha portato a vivere con lei un'esperienza, come dire, mistica. Un pochettino così, diciamo, però soprattutto a farmi riscoprire delle cose di me. Mi ha traghettato. Ecco, quando è venuto però il fortunato colpo di vento che l'ha riportata da un'altra parte? Diciamo che poi non sono mai più rientrato in quel tipo di vita che avevo programmato, nel senso che ora che ho 54 anni faccio una vita normale, faccio un pubblicitario. Ma c'è ancora l'infermiera o la ripresa al vento l'ha portata via? Devo dire la verità, è una persona che ho rivisto comunque più volte. No, questo è interessante, vedi, non è casuale, non è accessorio. Il senso del tourbillon è proprio questo, è ritrovarsi in presente davanti il fazzoletto di carta che si è buttato dal finestrino. Mi scusi il paragone, può sembrare banale. Il fatto che lei l'abbia rincontrata significa che eravate entrambi nel vortice e ogni tanto ci si ritrova. Sì. Assolutamente sì. Beh, la femme du cote, comunque, se lei l'ha visto lo conoscerà benissimo, naturalmente, sempre di Truffaut, è un film che esprime un po' in modo esagerato, naturalmente, perché lì c'è il finale tragico, nel mio caso fortunatamente. Beh, oddio, c'è il finale tragico, anche però. Julie Jim non è che finisca proprio bene. Grazie. Anna, buongiorno. Fa. Anna. Buongiorno. Si è sentita stronza? Leggo sulla scheda. Le è capitato? Senta, sì. Senta, dunque no, volevo portare la mia esperienza. Sì. Che è quella che a me piace tanto da morire, essere osservata, essere il mio tourbillon è questo. Io mi vesto spesso come vestiva Jean Moreau, oppure le tipe come lei, e poi mi piace fare lo spogliarello davanti a mio marito, però una volta mi è capitato di fare questo davanti a due uomini e provavo un senso di... Cioè lei ha fatto lo spogliarello... Di stronzaggine da parte mia, perché questi qui erano ammaliati e io ero contenta che loro mi guardassero, mi desiderassero. Ma qual era il problema? Faccia capire. Qual è il problema? Non è il problema, è il tourbillon che mi è preso quella volta, poi non mi è più capitato. Ma il tourbillon era più per loro due? Mio marito, sì, è loro due. Cioè lei ha fatto lo spogliarello davanti a due uomini? Esatto, sì, sì. Sì, ma come nasce la cosa? Scusi. No, nasceva perché erano due amici, ci siamo incontrati in un posto così. E lei ha detto, faccio uno spogliarello così passiamo il tempo. Sì, erano solo amici. E loro erano tutti contenti? Contenti, perché io attualmente faccio questo tourbillon anche davanti a mio marito e chissà, mi piace essere guardata, perché forse... Beh, lui ogni tanto si addormenterà perché a forza di tourbillon. Comunque vabbè, abbiamo capito, il tourbillon per l'ascoltatrice Anna è fare lo spogliarello di fronte a uomini, e si accontenta di farlo davanti al marito, e questo a lei dà un turbinio, probabilmente, non so quanto possa dare ancora al marito. De vue se reperdre, de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Ci sono varie letture del tourbillon de la vie, lo vedo attraverso gli ascoltatori che mi scrivono su Facebook. Non sono d'accordo con quello che mi dice un ascoltatore dicendo: ah, per me il tourbillon è mia figlia di 2 anni, mi ha sconvolto la vita. Sì, ma è prevedibile. È qualcosa fa parte della regola, della normalità, chiaro, una bambina affascina. Il tourbillon è qualcosa che ci viene da un universo a noi sconosciuto, anche a noi ostile, qualcosa che non conosciamo, è una caduta vorticosa che noi non possiamo assolutamente controllare. Grazie che sconvolge la vita a una bambina, ma non è quello il tourbillon. Il tourbillon è anche qualcosa che in fondo ci fa soffrire. È una lama affilata che ci entra nelle carni e di cui poi soltanto in seguito sentiamo il dolore cocente della ferita. All'inizio ne siamo quasi affascinati. È più vicina all'idea di tourbillon Barbara, che mi scrive: leggerezza, non superficialità, anche per comprendere che non si può possedere la vita degli altri, neppure la propria, abbandonarsi al giro delle danze per assaporare il massimo quando tieni la mano dell'altro per un attimo nella tua. Ecco, questo, non siamo padroni di un'altra persona. Della figlia sarai padrone, immagino, fino all'età matura, l'età adulta di tua figlia, ma tu non sei padrone della persona con cui condividi il tourbillon della tua vita, come appunto accadde a Giovanna, giovane impegnata dei centri sociali, che incontra lo sguardo ammaliante dell'essere più odiato nel suo riferimento, nel suo mondo di riferimento, che è un poliziotto. A un certo punto, scioccandomi, mi ha chiesto il numero di telefono, gesticolando, chiedendomi se ci potevamo vedere per un caffè e se gli lasciavo il numero di telefono. Io non sentivo la sua voce, né lui tantomeno poteva sentire la mia, quindi io prendo un pennarello, prendo un foglio A4 e scrivo in caratteri molto grandi il mio numero di telefono, che temevo che, oltre ad averlo preso lui, poteva averlo preso, insomma, qualsiasi altra persona che si potesse in quel momento affacciare alla finestra. Il vento tiepido dell'est. Poi ci si preoccupa tanto di essere intercettati, di essere tutti sotto una grande rete di spionaggio. Pensate a questo povero poliziotto, per assaporare le polpe della sua nemica storica deve gesticolare dalla finestra della questura e dirgli: mi dai il numero di telefono? E lei, senza pensare, lui in un secondo potrebbe intercettarla, averlo con le centrali telematiche di spionaggio occulto, farne ciò che vuole. No, lei glielo scrive su un cartellone e lo mostra alla finestra. Questo sì è un vero tourbillon. Questo è costruito di categorie improbabili, assurde, indefinibili, imprevedibili. Ci vediamo per un caffè e lì, naturalmente, lui è molto più grande di me. Mi aspettavo una persona totalmente diversa, mi aspettavo anche uno borioso, non lo so, una persona sicura di sé. Invece la persona che mi trovo di fronte è una persona molto curiosa, però anche una persona molto femminile, ecco, cioè mi ha colpito molto questo aspetto femminile del suo carattere. Quindi a questo incontro ne sono seguiti altri, naturalmente la relazione poi ha preso una piega diversa, cioè siamo diventati amanti. Ho subito sentito una forte sintonia sessuale con quest'uomo, e anche lui da parte sua, ma soprattutto la cosa straordinaria era che la nostra intimità, pur essendo due estranei, ci sembrava di conoscerci da tanto tempo. Visto con lo sguardo smaliziato del vecchio che sono io, devo dire quanta tenerezza in queste scoperte, quando poi in realtà è un modulo ripetibilissimo, accade sempre così. Le donne rimangono affascinate dal tuo lato femminile, significa che finalmente hanno trovato qualcuno che non le mena, che non le tratta pesci in faccia, che ha un minimo di sensibilità, e questo lato femminile naturalmente corrisponde sempre a una devastante, dilatante, fantasmatica potenza sessuale, chissà perché, e quindi l'immediata intesa, l'immediata intimità. Si dice sempre così, ma in realtà è semplicemente la scoperta di qualcosa di cui sarebbe sempre diritto, in ogni modo, in ogni occasione. Noi attribuiamo queste privilegiate categorie del piacere, della soddisfazione, della scoperta a qualcosa che si avvicina al tourbillon. Costanza. Ciao, la mia storia riguarda, vabbè, una grande passione amorosa, è una storia romanticissima, dai 15 ai 23 anni. Non breve, e oltretutto diciamo eravamo lontani, io ero a Napoli, lui a Ferrara, e abbiamo vissuto questa storia romanticissima, ma anche chiaramente difficoltosa. E dov'è il tourbillon? Il tourbillon è che poi questa storia è finita per colpa mia. Questa persona ha sofferto tantissimo, mi ha scritto tantissime lettere che io al momento avevo voglia di andare avanti, di vivere la mia vita, diciamo, non più legata sentimentalmente a questa persona, quindi ho preso queste lettere, tutte le foto di ben 8 anni di vita insieme, le ho messe in una scatola e le ho buttate in garage. E stanno ancora lì? No, oggi a 38 anni, sono passati 15 anni, sono sposata, ho un bambino di 2 anni e mezzo, ho avuto l'impulso irrefrenabile di rileggere queste lettere, rivedere le foto. È esploso il tourbillon. Ed è esploso il tourbillon. Sei andata, a Ferrara, spero. Mentre mio figlio dormiva, ho riletto tutte in un fiato le lettere di 8 anni di vita insieme. E sono state struggenti le ultime che 15 anni fa avevo letto. Ti trema la voce, sei pronta al grande, all'estremo sacrificio? Spero che da Ferrara ci sia qualche ragioniere, impiegato della pubblica amministrazione, questa mattina stia durante il lavoro sentendo la radio e queste tue parole gli ricordino qualcosa e si riaccenda anche per voi il tourbillon. Non so cosa augurarti. Io più che altro sto ricercando una mail, un numero di telefono, qualcosa. Fai un appello, devi dire sono disponibile, tutto ricomincia come prima, naturalmente, tenendo da parte gli inconsapevoli, rispettivi coniugi. Diciamo che io devo dire la verità, come dicevi tu, cioè tante noi crediamo che basta chiudere tutto in una scatola, mettere in un garage e come dire, abbiamo chiuso, no? No, brava, guarda, hai ragione. Così non è, negli anni tante volte l'ho sognato, l'ho ripensato, ci sono stati momenti che tutti i giorni mi tornava in mente qualcosa di questa persona, però mai avevo avuto il coraggio in 15 anni di, come dire, riaprire quella porta. Però adesso, mi permetti, ti sento matura come una pera che sta per cascare dall'albero, quindi non è che dovrebbe fare nemmeno tanto sforzo questo signore. Però guarda, dico, a me non ho mai pudore di esporre il mio privato in questa pubblica piazza, è accaduto grazie allo strumento informatico. Crim mi scrive in questo momento su Facebook, dice: Facebook ha riportato tutto a galla, ha consentito di far riaffiorare e riconsiderare il sepolto fino al capriccio di riaffrontarlo. E allora migliaia di passate delusioni o sospensioni apparentemente sepolte si risvegliano, aspirando al loro riscatto. A te accade in maniera più analogica, lo scatolone di lettere chiuso in garage che poi lo ritiri fuori. A me è accaduto che un mio grandissimo, fenomenale e distruttivo amore di oltre 30 anni fa mi si è riapparsa su Facebook, piena di figli, di mariti separati così. E devo dire che, più che tourbillon, è il senso di non saper affrontare quel tipo di scherzo del destino. Qualcosa tu pensavi ormai seppellito in un sarcofago sepolto di cemento armato, sovrascritto da migliaia di altre storie, ti riviene fuori lì, vero. Basta semplicemente fare un click, chiedere un nuovo telefono e lo si vede. Questo sconvolge. Michele. Ciao Gianfranco. Ah, Gianfranco, vabbè, è uguale, non è mi cambi molto. Va bene. Pardon. Ma da dove vieni fuori, Gianfranco? Non vedo scritto il tuo nome. Comunque va bene, dai, Gianfranco. No, allora, io nel 2002 ho subito un bruttissimo incidente che mi ha, insomma, ero io, Gianfranco. Un po' di coma, un po' di tutti i rachi del compromesso, ricostruzione gambe, braccio e tutto, quindi sono stato circa 2 anni e mezzo tra ospedali e fisioterapie. E la dottoressa che mi ha impostato il riassetto posturale, che mi ha aiutato a rimettermi in piedi, sai, i pazienti con i medici che ti aiutano, è una sorta di mito, no? Di divinità. Soprattutto se sono dottoresse, se il paziente è maschio, chiaro. Bellissima, poi la mia fata biologica. Vabbè, sembra la storia di Hemingway sul fronte del carzo. Vabbè. Sì. Quindi questa ti ha rianimato, ti ha ridato la vita, ti ha ridato la forza e il vigore delle membra e l'irachide è tornato come nuovo. E questo è il tuo tourbillon, ma scusa, è ritornata, è riapparsa? No, non è questo il tourbillon. Poi io nei miei, periodici controlli semestrali è successo che poi un giorno ci siamo trovati a guardarci negli occhi con una fortissima intensità che ha dato vita a una bellissima storia durata 9 mesi. Come nella scena clou del film con Monica Bellucci e Scamarcio, lui sulla sedia a rotelle, lei lo rianima. Quel film quando l'ho visto mi ha sconvolto perché era da poco terminata quando è successa questa cosa, per cui paradossalmente questa situazione, dato che la mia psicologia di uomo, di essere umano, di essere civile, di tutto, era stata molto compromessa da questo incidente, paradossalmente questo amore è stato il più terapeutico perché ha chiuso tutti i cerchi aperti. Dio abbia in gloria quella dottoressa che con scienza e coscienza ha capito che il tuo problema non era soltanto legato a una terapia riabilitativa, ma avevi bisogno anche di qualcosa in più. Benvenga e fortunato chi ha l'occasione di essere lambito da tali tourbillon. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Lui non sempre mi rispondeva e non ci vedevamo mai durante il fine settimana. Quindi dopodiché io mi sono fatta delle domande e ho chiesto delle spiegazioni e lui mi ha confermato appunto che era una persona che conviveva da tempo con un'altra donna, che era comunque legato in qualche modo a questa sua compagna, che questa cosa con me era nata così in maniera irrazionale e che anche lui si era lasciato prendere la mano senza rendersi conto in realtà di quello che stava succedendo, no? Questo è il racconto di Giovanna, del suo tourbillon, del poliziotto di cui si innamora, che trova improvvisamente dolcissimo, tenero, femminile. Adesso lo immaginava in tenuta da guerriglia con il manganello in mano, invece lui ha dimostrato che sa fare anche altre cose e quindi lei ne rimane affascinata. Poi, come si accade sempre in ogni tenera e romantica fanciulla che si fida di un lupo cattivo un po' più grande di lei e pensa che sia il principe azzurro, non riflette sufficientemente sul fatto che dietro il principe azzurro c'è sempre Biancaneve con tutti i sette nani e quindi anche in questo caso c'era una famiglia. Io naturalmente dopo questa rivelazione decido di interrompere la relazione e nel momento in cui insomma interrompo la relazione naturalmente il distacco è stato abbastanza doloroso sia per me che per lui. Sono arrivate le vacanze estive, quindi io me ne sono andata dalla città sperando anche di lasciarmi alle spalle questa cosa. Quando sono rientrata la sua finestra era chiusa e quindi questa cosa l'ho vista un po' come un segnale, non lo so, trovarmi questa finestra chiusa era anche un po' un simbolo della chiusura del nostro rapporto. Altri elementi del tourbillon, gli Stargate. Gli Stargate sono quelle porte di comunicazione tra realtà diverse. In realtà lo Stargate che metteva in comunicazione il quotidiano di Giovanna con l'extra quotidiano, che era l'ufficio del poliziotto, era una finestra. Chiusa la finestra, chiuso lo Stargate, non si entra più nella dimensione parallela, non si va più dall'altra parte, la fessura si è chiusa per sempre. Gli Stargate sono di infiniti modi, le finestre sono i primi. La finestra con la luce accesa della stanza in cui ho amato, la finestra dell'ufficio, il portone di quella casa, quella via, quell'albero, quel ristorante, quell'automobile parcheggiata. Ecco, c'è un'infinità di Stargate che, come nel film Matrix, sono i luoghi di entrata e di uscita. Quando si chiudono questi, uno pensa, immagina, suppone o illude se stesso che non ci sia più possibilità che passi anche semplicemente un piccolo alito di quel tourbillon, ma molte volte invece riprende. Poi invece è successo che una mattina, ora a settembre, mi sono svegliata, la prima cosa che faccio naturalmente è aprire la finestra, le tende, e me lo sono trovato di fronte, affacciato, con un sorriso a 36 denti. E da lì abbiamo iniziato a frequentarci, abbiamo capito che non eravamo in grado di stare lontano l'uno dall'altra. Quindi di fronte al tourbillon non c'è da illuderci, non c'è Biancaneve sette nani che tenga, non ci sono impedimenti di tipo sociale, tipo materiale, tipo ambientale, di differenza di censo, differenza di potere d'acquisto, differenza di ideologia. Quando prende il tourbillon, questa è la fattispecie, questa è la singolarità, ci si lascia andare, con piacere ci si lascia andare, con un po' di rimorso, di rimpianto, di piacevole sofferenza dell'autodistruzione, ma ci si lascia andare. Enzo. Sì? Eccomi. Ciao Gianluca. Il suo tourbillon. In pratica io nell'81... Abbassa la radio, spegni la radio. Ho conosciuto mia moglie, nel 91, dopo 10 anni di fidanzamento, ci siamo sposati. E nello stesso tempo lei acquistava un'attività, un piccolo negozio. Però in pratica più che passavano gli anni, più che i debiti aumentavano, io in pratica faccio il camionista... Io portavo a casa il mangiare e lei continuava a far debiti. Fin tanto a un certo punto che mi chiese di ipotecare la casa. Vabbè, ma cosa faceva? Giocava? No, lei con la sua attività, col suo negozio ha continuato a far debiti e ha chiesto a me di ipotecare la casa, di fare ulteriori debiti. Beh, scusa, potevi metterla in condizione di nuocere prima, se è negata al commercio fai fare un altro lavoro. Quello proprio è stato un mio sbaglio di non picchiare i pugni sul tavolo quando era ora. Vabbè, capita. Anzi, però per amore io ho fatto questo. Ogni tanto uno si scorda di avere le palle, succede ogni tanto, però l'importante è ritrovarle al momento giusto. Ho fatto quello e mi sono anche addirittura ho cominciato a cosa che adesso non faccio più, a bere per cercare di dimenticare, insomma, in poche parole lei nel 2005, dopo 15 anni di matrimonio così, mi ha sbattuto, siccome io non ho firmato, mi ha sbattuto fuori casa dicendo che io ormai ero alcolizzato, non le servivo più a niente, avrebbe detto tutto all'avvocato, insomma quello che ha fatto, mi ha sbattuto fuori quindi? Casa. Quindi in poche parole io l'avrei uccisa, l'avrei, ma mi sono trovato un anno a vivere in appartamento, mi sono trovato e in poche parole dopo un anno di separazione ci siamo ritrovati, lei ha venduto la sua attività. E io mi sono, diciamo, con un po' di senso di colpa, di come ti ho detto prima, potevo tirare fuori le palle prima, ma non l'ho fatto. In poche parole, adesso ci siamo ritrovati, siamo insieme con ancora qualche problema di casa, di lavoro, così, però insomma adesso. Tu mai avresti pensato che questa donna che odiavi, che volevi uccidere, ti ha distrutto la vita oggettivamente, tornasse a testa bassa e si ricominciasse da capo? Il tuo tourbillon è questo. È questo qua. Però sta attento che il tourbillon però non è che c'ho mai punti fermi, il tourbillon ha alti e bassi, quindi attenzione perché il vento soffia e non sa dove ti porta. Cosimo. Sì, buongiorno. Anch'io ho avuto il tourbillon. Premetto che sono felicemente sposato e ho dei bambini. Gli uomini sono più sinceri a confessare. Lo sai che questa mattina ho un pubblico femminile di solito molto estroverso, a parte la signora che faceva gli spogliarelli plurimi. Le donne sono molto restie, non vogliono ammettere al mondo che si lasciano prendere dal vento. E poi pensare che i classici dicono qui pluma levis, che è più leggero di una piuma. Beh, andiamo avanti, Cosimo. Sì, le dicevo che ho avuto pure io il tourbillon al tempo del liceo. Per cui ho rincontrato questa persona che è anche lei sposata e ha dei bambini per vedere un po' se il mio tourbillon fosse vero, fosse sincero anche all'età di 39-40 anni. Mm-hmm. Per cui l'ho incontrata e in realtà è una persona infelice, ha un casino di problemi fisici e soprattutto psichici. Però perché deve accollarseli lei, scusi, che glielo consiglia al medico? No, per cui il mio tourbillon, così come è venuto, se n'è andato immediatamente. Beh, è una fortuna. Cioè, sì. Beh, attualmente sì. Diciamo che era una fattispecie tourbillon in zona Limaccio. Il tourbillon è imprevedibile, non si controlla. Lei l'ha controllato in partenza, ha sentito lo spiffro del vento, ha chiuso la finestra, giustamente ha mollato fuori la caterva di problemi che non aveva voglia di prendersi sulle spalle, ma questo è normale perché dobbiamo farci del male. Cioè, quello che voglio dire io è che il tourbillon è figlio del passato. Cioè, certo, il tourbillon ci riporta davanti gli zombie che escono dal passato. Esatto. E noi ci illudiamo come allora che si tratti di persone vivaci e vive. Grazie Fabrizio Intonti, grazie Alessandro Chiappini, grazie al tourbillon della vita che ogni mattina mi riporta davanti a questo microfono. Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.